nero, un tipo de topo che si fuma tutto quello che c'è, che c'è, che c'è. Sacchetti gratis a tutti di plastica però. Ciao. Dopo tipo me, dopo tipo te, dopo che si fuma tutto quello che c'è, che c'è. Dopo tipo me, dopo tipo te, dopo che si fuma tutto quello che c'è, che c'è. Quello che c'è, che c'è, che c'è.